se me sconfetta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri. E tutti altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa. Shake it 17:40, con qualche minuto di ritardo, comincia Impatto, trasmissione contro le nocività, questo lunedì 23 aprile. Ricordiamo il numero di telefono della radio per chi ci volesse chiamare, lo 06 17 50, e ricordiamo anche che dal nostro sito è possibile fare una donazione, una sottoscrizione alla radio, la radio senza padroni né padrini, quindi sosteneteci. E vi diamo un'anticipazione in scaletta, come ogni lunedì, di quello di cui andremo a parlare oggi. Cominceremo con una corrispondenza da Chiaiano, perché proprio negli ultimi giorni ci sono state delle mobilitazioni dei comitati contro la discarica perché pare che a Chiaiano vogliano costruire aprire una nuova discarica. Seguirà poi un'altra corrispondenza con i comitati di Quarto, altra località campana, dove sorgono, dovrebbero sorgere ulteriori discariche, un po' di aggiornamenti su Albano e sulla ormai diatriba infinita sulla discarica di Malagrotta. Questa volta lo scontro non è Clini Polverini ma Clini Alemanno, si sono dati il cambio, e andremo a parlare della nuova categoria di rifiuti che ci presentano come nuova ma che in realtà nuova non è, e parliamo del CSS, che rientra come grande novità nel decreto rifiuti che Clini farà uscire il 30 aprile. Fammi una magnata di durone. da mill'anni che se facci notte, panna da solo via da questa parte, panna da solo via da questa parte, mi è venuta la smania della morte. Me sa mill'anni che se facci notte, panna da solo via da questa parte, panna da solo via da questa parte, m'è venuta la smania della morte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E torniamo in voce dopo questa canzone dedicata a chi ci è particolarmente simpatico. Siamo in collegamento con un compagno da Chiaiano. Pronto? Ciao, ci senti? Ciao, pronto, sì, vi sento bene. Ciao, benvenuti ai microfoni di Radio Onda Rossa. Senti, noi ti chiamiamo insomma proprio per tutta la polemica che si è creata. Facciamo un'introduzione anche per chi ci ascolta. Qualche giorno fa è arrivata questa notizia che la Regione Campania aveva scritto una relazione tecnica rivolta alla Comunità Europea, dove si diceva disponibile per evitare eventuali altre sanzioni da dover pagare in materia di rifiuti, si diceva disponibile a riaprire la cava di Chiaiano, praticamente, che è una cava chiusa ormai da molto tempo, almeno da un paio di anni. E quindi ovviamente la questione ha allarmato grandemente tutti i cittadini, gli abitanti di Chiaiano e non solo, che si sono mobilitati e sono, insomma, si sono ritrovati di nuovo a riunirsi in assemblea, sono di nuovo scesi in piazza e probabilmente sono previste delle mobilitazioni. Quindi ti chiediamo di fare il punto su questa situazione, di raccontarci i giorni passati e quali sono le prossime iniziative. Sì, certo. Allora, praticamente l'altro ieri, per mezzo stampa, la Regione praticamente ha reso noto che aveva inviato una relazione alla Comunità Europea in cui praticamente diceva di riaprire entro il 2013 la discarica di Chiaiano e parlava anche della costruzione dell'inceneritore di Napoli Est, sempre all'interno di questa relazione, che però in realtà il Comune di Napoli ha bloccato. Quindi da un lato potrebbe trattarsi del solito tentativo di evitare sanzioni e di prendere tempo da parte della Regione, però c'è da dire che questa notizia ha allarmato i cittadini di Chiaiano, Marano e Mugnano, e proprio oggi c'è un'assemblea pubblica in cui praticamente si deciderà come muoversi nei prossimi giorni. C'è da dire che la discarica è stata chiusa il 1° dicembre 2012 dopo un piano di mobilitazioni molto, molto forte, lungo, che ha coinvolto tantissimi cittadini e praticamente ha impedito l'ampliamento che aveva in mente, che praticamente le istituzioni avevano in mente di fare, perché Chiaiano in realtà secondo loro doveva chiudere nel 2013 grazie a un ampliamento che gli avrebbe consentito di sversare ancora 200.000 tonnellate. Quindi diciamo, le mobilitazioni sono anche recenti e questa notizia di sicuro ci mette in allarme. Verificheremo in questi giorni il da farsi, anche perché domani poi c'è al Comune di Napoli una discussione monotematica della commissione d'inchiesta proprio sulla discarica di Chiaiano, in cui si dovrebbe invece discutere delle modalità di capping e di chiusura e tombatura definitiva della discarica. Per questo sono tutta una serie di informazioni contrastanti, noi abbiamo ovviamente gli occhi aperti e tra l'altro c'è da dire che il 1° maggio abbiamo anche un'importante iniziativa, perché noi tutti gli anni dal 1° maggio 2008, in cui praticamente partirono le barricate per impedire l'apertura della discarica, appunto celebriamo sul territorio il 1° maggio e sarà un grande appuntamento che coinvolgerà come tutti gli anni sicuramente centinaia e centinaia se non migliaia di persone, e sarà anche un momento per poter appunto discutere di quello che si sta dicendo, di quello che dicono le istituzioni in questo momento riguardo a Chiaiano. C'è una situazione abbastanza complicata in questo momento a Napoli da parte della regione e della provincia sul tema dei rifiuti, perché le grandi mobilitazioni di Quarto, le mobilitazioni che ha prodotto Chiaiano, le mobilitazioni che ha prodotto Terzigno in un certo senso hanno impedito negli ultimi anni a questi signori di combinare i disastri che hanno combinato negli anni precedenti. Cioè, questa è una discarica, ormai non riescono più ad aprirla da nessuna parte, perché c'è un livello di autoformazione e di conoscenza delle dinamiche legate alle questioni dei rifiuti in Campania che di fatto rende impossibile la collocazione delle discariche. Per questo, diciamo, buttano probabilmente queste giocate in mezzo, ma poi di fatto i territori rispondono sempre. Bene, quindi lo strumento della controinformazione sicuramente è servito a Chiaiano. Una domanda, visto un po' anche qui nel Lazio abbiamo un'emergenza, diciamo un problema legato ai rifiuti, che chiamano emergenza poi per sdoganare tutte le nomine dei vari commissari e poi fare operazioni chiaramente con ampio impatto ambientale. I comitati territoriali e Napoli, in che rapporti sono? Perché per esempio noi nel Lazio abbiamo che il problema dei rifiuti è fondamentalmente della città di Roma, che produce il 60% dei rifiuti, quindi chiaramente i comitati, diciamo, e anche insomma chi a Roma si mobilita contro le nocività stanno cominciando a parlare per far intervenire chi questa monnezza la produce. E lì la situazione com'è? No, c'è da dire che negli anni precedenti a Napoli c'è stato un forte movimento contro la raccolta differenziata che diciamo incideva in città. Tra l'altro, diciamo, anche le politiche dell'amministrazione comunale sul tema dei rifiuti tendono comunque, diciamo, a spingere la raccolta differenziata. Comunque, rispetto a quello che è il piano generale e anche a livello di contrapposizione a quello che è il piano regionale dei rifiuti, che una volta invece era il piano dei commissari straordinari, c'è da dire che tutte le mobilitazioni che sono prodotte sui territori in realtà, diciamo, hanno costituito. Abbiamo un problema, probabilmente è caduta la linea, allora riproviamo a chiamare il compagno e nel frattempo vi mandiamo una canzone. Thank you. però purtroppo non riusciamo più a metterci in collegamento con il compagno di Chiaiano perché il telefono non prende, però magari ci ripromettiamo di contattarlo magari sul finire della trasmissione e raccontiamo un po', diciamo, quello che è successo a Chiaiano. Come accennava lui, questa cava era stata già chiusa nel 2008, ci sono state moltissime manifestazioni in zona, alla fine anche i sindaci e tutte le istituzioni competenti di zona hanno deciso effettivamente di chiudere definitivamente la discarica di Chiaiano. A questo stato l'Unione Europea, spinta dalla Regione Lazio, invece si dice pronta ad ampliarla, quindi a procedere a un ampliamento, ma di nuovo le istituzioni e la popolazione si dicono sin da subito contrari, quindi vedremo quale sarà l'esito. Sicuramente a Chiaiano, probabilmente, se dovesse andare avanti questa cosa, rimonteranno nuove mobilitazioni, perché diciamo la popolazione di zona si è dimostrata più volte molto resistente nei confronti della riapertura di questa cava. Sempre a pochi chilometri da Chiaiano c'è una situazione molto simile per certi aspetti, quella di Quarto, che è stata protagonista di molte rivolte e molte proteste nella settimana scorsa. È una cittadina che è nuova a questo tipo di proteste perché non era ancora rientrata nei siti di interesse regionali della Regione Campania in materia di rifiuti, e parliamo quindi della cittadina di Quarto, che nella settimana scorsa ha visto la presenza di molte persone in piazza che hanno addirittura bloccato le strade di accesso a questa sorta di cava, perché la discarica, che non esiste ma che dovrebbe essere aperta, dovrebbe sorgere in un bosco lì vicino, che non è una vera e propria cava. Parlavamo fuori onda, poi adesso ci metteremo in collegamento con una mamma dei comitati no discarica di Quarto. È una zona, praticamente in questo momento l'unica zona verde vicino anche al parco regionale che si trova da quelle parti. Quindi quello che è successo è che in queste settimane, data la notizia che si voleva di nuovo aprire una discarica lì, e tra l'altro sorge questo posto a pochi chilometri da Taverna del Re, dove c'è una discarica da 4-5 anni, a pochi chilometri da Giuliano, dove, come il compagno ci raccontava prima, vogliono addirittura costruire un nuovo inceneritore e c'è la possibilità anche lì di aprire una nuova cava, a pochi chilometri da Terzigno, insomma sorge al momento all'interno di un triangolo, un quadrato che è abbastanza contaminato, e questo è dovuto alla presenza di queste grandi cave. Nel napoletano è nota il coinvolgimento, diciamo, di grossi imprenditori che prima estrapolano materie prime dalle cave e poi le cave vengono riempite con i rifiuti, quindi hanno questo doppio business di prendere il materiale dalle cave, quindi gestire le cave, e poi rigestirle in seconda istanza per riempirle di rifiuti. E dovrebbe essere una situazione simile quella di Quarto, anche se, come detto, non è propriamente una cava. Quindi magari ci mettiamo in collegamento con questa compagna dei comitati non discarica e ritorniamo a fare un aggiornamento su quella che è stata la situazione, dal momento che sabato c'è stato anche un grandissimo corteo molto partecipato. Questa musica sa da cagnare, dimmi briganda, facimmi paura, e cascuppetta pulimmi canta, e cascuppetta pulimmi canta. dice pa' guerra non tena pietà, dice pa' guerra non tena pietà. Brigante s'amor, ma fino all'urde ma mimma spada, e si morimma manata un giorno, e una preghiera per sta libertà, e una preghiera per sta libertà. Omma se nasce brigante s'amor, ma fino all'urde ma mimma spada, nasce brigante d'amor, ma fino all'urde ma chi mi sparà, e si morì in me menate in usciore, e una preghiera per sta libertà, e una preghiera per sta libertà. Come detto, quindi siamo in collegamento con una mamma dei comitati no discarica di Quarto, perché la settimana scorsa si era paventata l'ipotesi di portare delle trivelle nella zona di Quarto, che risiede vicino Pozzuoli e tra l'altro dista meno di un chilometro dalla discarica di Pianura, che è una discarica ormai chiusa da 20 anni ma che è stata attiva per 20 anni, che tuttavia continua ad avere perdite di percolato da una parte e dall'altra, diciamo, della discarica. E la settimana scorsa c'era la possibilità di portare le trivelle praticamente nella zona di Quarto, e quindi i residenti di zona si sono messi in mezzo e hanno evitato l'accesso di queste trivelle, proprio perché erano preoccupati del fatto che una volta giunte le trivelle nella zona dove dovrebbe sorgere la discarica, poi il territorio sarebbe stato militarizzato e quindi le proteste sarebbero diventate automaticamente più difficili. Quindi un saluto, ciao Rizzana, ci senti? Ciao, salve, vi sento. Ciao, raccontaci quindi un po' quello che è successo dalle vostre parti, come introducevamo noi, quali sono state le azioni che avete portato avanti. E c'è stato anche questo corteo di sabato, 5.000 persone, che è il secondo corteo, se non sbaglio, molto molto grande. Addirittura ce n'è stato uno intorno a metà marzo che ha visto la partecipazione di 20.000 persone nella zona di Quarto e di Pozzuoli. Quindi raccontaci l'aria che si respira, cosa è accaduto la settimana scorsa e cosa avete anche in programma per ostacolare questa costruzione. Allora, la settimana scorsa è giunta un'informazione dal comune di Quarto che il sindaco era stato invitato a un consiglio di comitato di ordine e sicurezza, in quanto il giorno dopo si pavimentava l'idea di far arrivare queste trivelle per questi famosi carotaggi. I carotaggi sono l'ultimo esame che serve per l'apertura di una discarica. Arrivata questa informazione, visto che questo comitato d'ordine era già stato rinviato il mese di marzo, dopo, come tu dicevi, alla manifestazione dei 20.000 abitanti della città di Quarto, il sindaco ha pensato bene di informare la cittadinanza. Contemporaneamente a questo comitato dell'ordine, la zona si è vista chiusa da queste camionette della polizia che mano a mano avanzavano nei paesi limitrofi. Il comitato, la cittadinanza quartese ha cercato di chiudersi con dei blocchi all'interno del paese, ma comunque c'erano degli elicotteri militari e degli elicotteri della polizia che sorvolavano sulla nostra zona e presidiavano dall'alto tutta la città di Quarto. L'area... Sì, scusami. No, ti volevo chiedere, quanto tempo prima voi avete avuto notizia di questa cosa? Cioè, proprio pochi giorni, quindi l'organizzazione... No, il giorno prima. Il pomeriggio, il martedì per il martedì sera, per il giovedì mattina alle 9, neanche poco più di 24 ore prima l'abbiamo saputo. Siete stati molto tempestivi proprio, diciamo, in poche ore vi siete organizzati e siete riusciti a ritrovarvi tutti in piazza insieme. In effetti, quando sono state avvistate le camionette, una strada che dista 20 km da Quarto, è partito un vero e proprio allarme. con le campane della chiesa che suonavano, con le sirene che suonavano in tutta la zona, macchine che partivano per il megafonaggio, bussate al citofono, bussate al telefono. Queste sono state le vie di comunicazione per tutta la cittadinanza. E ognuno nella zona... A quanto sembra, sono state anche molto efficaci perché eravate tantissimi, insomma, quindi... Eravamo tantissimi. Il Comitato di Ordine e Sicurezza, quando si è tenuto, proprio nella giornata di venerdì, quando si è tenuto il Comitato di Ordine e Sicurezza, l'elicottero insisteva su, per più di un'ora, quasi un'ora, sulla nostra zona, e in quel momento c'era un corteo spontaneo di alcune scolaresche della città che era partito ed era arrivato da Quarto e è arrivato a Monte Ruscello, una piccola frazione di Pozzuoli, perché i due presidi praticamente prendono, sono tutti e due al confine di Quarto, uno nella zona di Pozzuoli e uno nella zona di Monte Ruscello, e quindi l'aria fa paura. I miei figli che erano a casa mi telefonavano, dicevano: mamma, ma che sta succedendo, questo elicottero vola proprio su casa nostra. E in effetti si sentiva proprio il fiato sul collo della polizia e dell'esercito che era lì per arrivare. Per fortuna il comitato il prefetto non ha dato l'ordine alle forze armate di entrare, in quanto il tecnico della SAPNA, il signor Perillo, si era appena un attimino aveva pensato di congedarsi dal suo ruolo amministrativo e tecnico, e quindi non ha potuto firmare uno degli atti necessari per far sì che il prefetto desse il via libera all'esercito e alle ruspe di entrare. Ricordiamo che tra l'altro tutta questa cosa accade in campagna elettorale, quando ci sono diversi candidati di sindaco che hanno sospeso la loro campagna elettorale proprio per tutto questo momento di agitazione, alcuni dei quali sono anche scesi al fianco della popolazione, e la prefettura, se non sbaglio, diciamo, ha bloccato dopo queste proteste temporaneamente questi carotaggi, diciamo, forse per far stare un po' buona la popolazione, se vogliamo essere un po' cattivi, diciamo, no? No, siamo cattivi, perché noi l'abbiamo pensarlo. Voi non siete noi siamo cattivi a pensarlo, perché appunto neanche il mese scorso, quando è stato rinviato il Comitato di Ordine e Sicurezza, è stato rinviato, non dimentichiamo che a Napoli noi abbiamo avuto l'America's Cup, e quindi il caro del Magistris, che tanto ci appoggia perché è l'unico che ci appoggia, aveva vicino Cesare Caldoro che si facevano le fotografie con loro, quindi ci hanno tenuti bene a bada in quel periodo, quindi secondo me a questa purtroppo il problema è politico, e quindi è la politica che fa che deve intervenire. Sì, poi insomma De Magistris è solo il sindaco di Napoli, la questione qui è tutta regionale, invece è provinciale e regionale, anzi De Magistris come gli altri sindaci del comprensorio Flegreo ci hanno appoggiato, ci appoggiano tutti, i loro consigli comunali a unanimità hanno detto no alla discarica del Castagnaro con degli ordini del giorno, e quindi voglio dire, oggi qualcuno mi dice: ma chi è che dice che questa discarica si deve fare? È unico e solo il commissario Vardè, perché il Senato ci appoggia, la Camera ci appoggia, anche diciamo il prefetto in qualche modo ci è venuto incontro, perché tranquillamente lui avrebbe potuto dire: io non posso fare altro e vi mando l'esercito. Chiaro, e vuol dire che abbiamo ragione. Ti voglio chiedere una cosa, perché qui parlano di una cava, ma tu ci raccontavi fuori onda che invece non si tratta di una cava, e poi cerchiamo anche di localizzare geograficamente dov'è Quarto rispetto alle altre discariche. Noi nell'introduzione l'abbiamo fatto, però tu che sei del territorio sicuramente ci puoi ricordare, non so, Pozzuoli, Pianura, Giuliano e Marano, tutte le loro caratteristiche, che sono tutte cittadine che stanno a pochi chilometri da voi, quindi a vederla un po' dall'alto, se vogliamo, proprio da una mappa geografica, sembra che nella regione Campania si stia predisponendo il terreno, predisponendo le forze anche militari, se vogliamo, perché l'abbiamo già visto militarizzato quel territorio, per creare una zona nella quale veramente si stanno concentrando la maggior parte poi delle atrocità, delle nocività in materia di rifiuti, in questo caso inceneritori e quant'altro. Quindi ti chiedo di farci un po' un punto su questo? Allora, il punto su questo è che purtroppo Quarto è incentrata appunto vicino a Pianura. Pianura, come hai ricordato tu, è praticamente a meno di un chilometro, a 700-800 metri da Cava del Castagnaro. La Cava del Castagnaro è il territorio di Pozzuoli, che affaccia su Quarto. A Quarto un anno fa volevano riaprire un'altra discarica, Cava Spinelli. A fianco sempre a Quarto c'è Marano, dove c'è un'altra cava possibile. Purtroppo è un terreno che ha tanti buchi e loro hanno questa cultura di riempire i buchi. Stranamente Cava del Castagnaro non ha un buco. Praticamente è una falda di montagna che non c'è, perché circa 30 anni fa è stata usata, perché è un terreno argilloso, un terreno di lapillo, un terreno franoso. Hanno scavato un quarto di montagna, uscita la falda acquifera, si sono fermati. Quindi loro parlano di riqualificazione ambientale, sarebbe ovvero sia ricostruire un costone di montagna e metterci delle paradie di cemento coperte con delle tralicci di legno e poi alla fine metterci degli alberelli. Questo è la loro riqualificazione ambientale. Sì, sì, sì, tra l'altro leggiamo dai giornali, mi raccomando, non si tratta di una discarica nel senso tradizionale, ma di un sito di smaltimento di rifiuto biostabilizzato con le moderne tecnologie. Come al solito ci spacciano, no, le moderne tecnologie come risolutive di problematiche di inquinamento o anche di male odori, dicendoci che i rifiuti sono biostabilizzati, quando poi anche a Chiaiano parlavano di rifiuti biostabilizzati con moderne biotecnologie. L'abbiamo vista, la discarica di Chiaiano era una discarica vecchio stile, a cielo aperto, coperta coi teloni e con l'argilla. Quindi insomma sono no. La riqualificazione ambientale della quale parlano loro sui progetti che noi abbiamo avuto dalla SAPNA sono progetti in cui parlano di qualificazione ambientale, dove dovrebbero porre del compost fuori specifica, trattato quindi in arte, ma chissà perché la discarica, il progetto prevede una vasca di percolato che pare a una piscina olimpionica. Questo è quello che loro spiegano. Quindi forse c'è qualcosa che non va tra quello che dicono e quello che poi hanno presentato certo, al progetto. Dicono delle cose e poi probabilmente ne faranno altre. Purtroppo il vostro territorio ne ha viste già assai di cose di questo genere. Senti, sì, sì. Nel chiudere ti chiedo di ricordare se ne avete appuntamenti e prossime iniziative. Sappiamo che voi vi state legando anche con i comitati di Tersigno, di Chiaiano, di Giuliano, di Marano, perché prima, poco fa, abbiamo sentito un membro dei comitati di Chiaiano, poi purtroppo è terminata la comunicazione, però sappiamo, perché ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, che per fortuna comunque questo territorio la solidarietà la fa diventare davvero attiva, quindi nelle vostre assemblee magari partecipano membri dei comitati di Chiaiano, così come voi andate alle loro assemblee, c'è questo scambio continuo anche in questi blocchi che avete fatto, non eravate solo voi del posto, dico no, no, c'era non solo nei blocchi, anche nelle organizzazioni, nelle manifestazioni. Nella manifestazione di ieri sera che abbiamo tenuto al Palapartenope nella giornata del territorio c'era Chiaiano e c'era Tersigno con noi. Stasera siamo stati informati che c'è una riunione a Chiaiano. Chiaiano è in allarme, forse anche più di noi in questo momento. La collaborazione c'è ed è viva e dobbiamo andare avanti così e dobbiamo lottare. Bene, bene, bene, andiamo a lottare e lottare uniti, voi insomma nel vostro lottare campo. Uniti, perché noi siamo contro la discarica e contro gli inceneritori, contro tutte le discariche e contro la discarica del Castagnaro. Il nostro slogan è no alle discariche né al Castagnaro né altrove. Grande Tiziana, allora con questo slogan ci salutiamo, ti ringrazio e ci torneremo sicuramente a riaggiornare per ulteriori sviluppi. Grazie ancora. grazie a voi. Ciao. Buonasera. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots police are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. E torniamo in voce, sempre sono le 18:16 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a parlare della questione rifiuti nel Lazio, perché come ogni settimana non può mancare il consueto aggiornamento. E allora, qual è lo stato della situazione rispetto a Malagrotta e all'individuazione dei siti alternativi, e soprattutto a che stato è il costante litigio tra le varie figure istituzionali? Sì, insomma, si continua su questa polemica tra, diciamo, i vari schieramenti sulla chiusura di Malagrotta. Questa settimana è il sindaco ad Alemando ad attaccare il ministro Clini su un sito probabile sito dove aprire la discarica, che sarebbe, come insomma viene poi riportato dai giornali, non più Monti dell'Ortaccio, ma sempre adiacente a Malagrotta, Monte Carnevale. Insomma, in questi mesi siamo venuti a conoscenza di una quantità di località a noi sconosciute, e ne aggiungiamo un'altra alla lista. Quindi questo Monte Carnevale, ex cava di Brecciolino, che dovrebbe essere convertita a discarica provvisoria del post Malagrotta. Ma è un sito nuovo o è semplicemente l'ennesimo gioco delle tre carte, per cui lo stesso sito si chiama in tre modi diversi, tipo Testa di Cane, Monti dell'Ortaccio, Monte di Carnevale? Monte di Carnevale. Questa cosa magari la capiremo nelle prossime settimane, nelle prossime puntate. Però logicamente va da sé che c'ha tutti i problemi di un sito adiacente a Malagrotta, zona dove ormai dove da più di 30 anni ci sono dei problemi ambientali di notevole portata, sia da parte della discarica sia poi della raffineria, che sempre da quelle parti sorge. E il sindaco Alemanno addirittura in alcune interviste radio ha lasciato intendere che avrebbe partecipato alle manifestazioni di protesta in caso il ministero avesse scelto questo luogo per aprire una discarica. Quindi il 30 aprile sarà una data molto importante, perché comunque sia si ridefinirà o si definirà forse definitivamente, non si capisce bene, sia i siti dove aprire la discarica sia l'iter vero e proprio per poi arrivare a fare una discarica. In questa data probabilmente poi arriveranno anche le dimissioni del prefetto Pecoraro, che è stato nominato commissario straordinario ai rifiuti e che insomma non ha avuto grande fortuna questa nomina, tant'è che i siti proposti da lui sono stati pressoché, speriamo insomma anche per le persone che vivono da quelle parti, cancellati, cassati, e quindi diciamo ha incassato una batosta bella pesante. Ma insomma il 30 aprile sarà anche importante per un altro punto di vista, questo che forse avrà conseguenze più sul lungo periodo e soprattutto che purtroppo coinvolgerà tutto il territorio nazionale, perché è in preparazione un decreto proprio del ministro Clini per la nuova ridefinizione dei combustibili secondari, i prodotti da rifiuti, e delle loro applicazioni nel settore industriale. Diciamo subito che insomma sia il ministro Clini sia la letteratura scientifica sull'argomento è veramente contraddittoria, e diciamo che tutti dicono, cioè si può dire qualunque cosa, poi il contenuto vero e proprio di questo nuovo combustibile non è ancora chiaro. Le aziende che insomma sui siti delle aziende che già lavorano nel settore ci sono delle indicazioni, e sono delle indicazioni veramente preoccupanti. Sì, perché mentre la stampa, quei pochi organi di stampa che si occupano di questo CSS, che sarebbe il combustibile da rifiuti secondari, la stampa diciamo dà una definizione... Combustibile verde, ci tengono sempre sì, a ricordare. Sì, sì, carbone verde, ci ricordano. È in realtà un combustibile che si produce dal 2008, però negli organi di stampa ce lo fanno passare come una grande novità, una grande innovazione, perché il ministro Clini cosa dice? Questi rifiuti, se non li vogliamo bruciare negli inceneritori, perché guarda caso forse c'è pure chi sbomballa e non vuole un inceneritore sotto casa, li possiamo mandare ai cementifici. E scopriamo che questo CSS, in particolare la versione alta qualità del CSS, manco fosse una bottiglia di latte, viene bruciato nei cementifici. Un combustibile che ha un potere calorifero più alto del CDR, un combustibile che è stato indagato negli ultimi anni, e le aziende che citavamo prima, come per esempio il gruppo D'Alena, producono da tanti anni, hanno ridotto sempre di più il livello di umidità, e questo chiaramente fa sì che una cosa, se è meno umida, brucia meglio e quindi sprigiona maggiore energia. Ma di che è fatto questo CSS? Se ce lo chiamano carbon verde, combustibile verde, andando a vedere di cosa è fatto scopriamo che di verde c'è ben poco, dato che i componenti fondamentali sono plastica, pneumatici in disuso, scarti di calzaturificio e scarti tessili, quindi non proprio cose verdi, anzi cose tutt'altro che verdi. Ma sicuramente materie prime e comunque materiali che sicuramente però alzano il potere calorifero all'interno dei cementifici o dei termovalorizzatori, visto che ci sono le ruote delle macchine. E quindi insomma è evidente tutti che... Tutti i materiali anche riciclabili, poi tra l'altro gomma anche materiale riciclabile, che però si preferisce bruciare ovviamente. Esattamente, come nel caso del vecchio CDR. Però insomma il giochetto pesante è quello di far passare quelli che sono fino adesso tuttora dei rifiuti speciali, tipo le ruote delle macchine, a dei rifiuti che è possibile bruciare dentro degli impianti industriali. E quindi questo giochetto è veramente pericoloso, perché in poche parole scalzerebbe quel minimo di denominazione che ha il CDR, che prevede soltanto carta, cartone e plastica al suo interno, e permetterebbe che insomma lì dentro ci finisce praticamente di tutto. Ci ricordiamo il caso dell'inceneritore di Colleferro, dove appunto era prassi usuale bruciare le ruote delle macchine, perché appunto hanno questa capacità di aumentare il potere calorifero. Certo. Con le conseguenze che le emissioni dal camino dell'inceneritore producono quantità di diossine e nanoparticelle notevolmente maggiore al contrario del normale CDR. E quindi insomma è veramente, si sta preparando un'ulteriore fregatura sia per le popolazioni che già hanno questo tipo di impiantistica vicino casa, ma sia per tutte le persone che hanno un cementificio vicino casa, che potrebbe cominciare ad accogliere questo tipo di spazzatura. Un altro motivo anche per il quale vengono introdotti questi CSS, nuovi rifiuti, al posto del CDR, è il fatto che, almeno questo sospettiamo, che gli impianti nuovi che vengono costruiti a partire dal 1 gennaio 2010, quindi parliamo di impianti di incenerimento oppure simili, non possono più accedere per la legislazione corrente ai fondi, insomma, dei CIP6, i famosi CIP6, che sono i fondi devoluti a chi smaltisce il CDR. Quindi cambiare il tipo di rifiuto probabilmente porterebbe a anche un cambiamento di normativa. Questo significa che se non esistono più fondi per il CDR, potrebbero esistere invece fondi per il CSS. Quindi sospettiamo che il cambiare la denominazione del rifiuto sia un modo per aggirare la vecchia legislazione scaduta ormai al 1 gennaio 2010, in modo da poter riaccedere nuovamente ai fondi pubblici CIP6 o altri simili. Un altro dato interessante di questo decreto rifiuti che Clini dovrebbe sfornare entro il 30 aprile è quello riguardo lo spostamento dei rifiuti stessi, perché appunto cementifici e industrie che possono diciamo utilizzare questo tipo di combustibile non sono proprio sparse in maniera omogenea sul territorio, e Clini in questo decreto vorrebbe diciamo liberalizzare il trasporto dei rifiuti oltre il raggio dei 70 chilometri previsto attualmente. Quindi possiamo, insomma, il rifiuto diventa in questo caso un bene, e potrebbe esserlo chiaramente anche riciclandolo, perché sappiamo che l'alluminio delle lattine, così come il PET, la parte della plastica riciclata, la carta riciclata, sono comunque cose che potrebbero essere che vengono pagate e vendute a peso d'oro, quindi questo sempre per dare una, diciamo, un'idea della, di cosa impiegato, cosa implicato in questi giri di affari. Ebbene, questi rifiuti potrebbero essere trasportati da una parte all'altra con molta più facilità, e ricordiamo che appunto il trasporto dei rifiuti di per sé poi inquina, e le zone in cui poi vengono stoccati questi rifiuti e bruciati tipicamente sono zone militarizzate, spesso anche perché la popolazione chiaramente si oppone, come ricordavamo, ecco, per Chiaiano e altre zone nella regione Campania. Il ministro Clini chiude, insomma, le sue dichiarazioni affermando che poi questo provvedimento sarà molto importante, perché poi, secondo lui, scipperà le organizzazioni criminali di una fetta del business dello smaltimento dei rifiuti speciali, perché insomma di quello si parla, e con questa operazione riusciranno a toglieranno una fetta di appunto di economia sommersa dallo smaltimento dei rifiuti speciali. Questa affermazione è veramente contraddittoria, perché se pensiamo alla dinamica che propone il ministro Clini, cioè che i rifiuti prodotti dalle fabbriche del nord Italia verranno smaltiti nei cementifici della malavita al sud Italia, che insomma sappiamo tutti che stretto rapporto c'è tra organizzazioni criminali e smaltimento dei rifiuti, ma anche tra organizzazioni criminali e produzione del cemento stesso. E quindi insomma questa affermazione ci fa pensare che invece questa sia un bel regalino alle organizzazioni criminali, che così comodamente potranno portare questa robaccia direttamente dentro agli impianti che già gestiscono, e poter così evitare problemi legali relativi allo smaltimento illecito dei rifiuti. Quindi insomma sicuramente un decreto da contestare e bloccare attraverso la mobilitazione. Di questo decreto già si sta parlando, insomma, dentro a tutti i comitati, perché logicamente apre degli scenari molto inquietanti. Speriamo, insomma, che le mobilitazioni si comincino, mobilitazioni specifiche su questo percorso, per impedire che questo decreto, insomma, diventi realtà e produca gli effetti sperati dal ministro Clini. E quindi insomma un invito a seguire e a mobilitarsi proprio su questo argomento, che probabilmente diventerà uno snodo centrale poi per tante altre vertenze e situazioni sparse in tutta Italia, che vedono la presenza di discariche inceneritori, ma anche dei cementifici. A questo punto, sì. Una nuova aggiunta. E allora noi ci avviamo alla chiusura, così da lasciare spazio al tappabuchi, ma prima, visto che oggi è 23 aprile, tra due giorni sarà il 25 aprile, una data che a noi piace non solo ricordare con appunto ciò che tutto ciò che è accaduto tanti anni fa, la resistenza, la lotta partigiana, ma ci piace ricordarlo anche attivamente, continuando a lottare e mettendo in campo percorsi di lotta. E a questo proposito ci sono varie iniziative proprio dei comitati territoriali, come per esempio quella a cui parteciperà il comitato del presidio fisso di Riano a Fara Sabina, un incontro tra partigiani, diciamo, vecchi e nuovi, se così possiamo dire, insomma, e un incontro con, appunto, che vedrà comitati territoriali e partigiani a confronto, e anche delle iniziative ad Albano, perché proprio mercoledì ci sarà un'intera giornata. Sì, mercoledì il coordinamento del contro l'inceneritore ad Albano sta organizzando un'assemblea pubblica per la mattina a Genzano, in piazza Genzano, e poi un momento conviviale sempre in zona Genzano. E invece per sabato 28 aprile alle 5 una vera e propria assemblea pubblica per insomma raccontare quello che è successo sabato al corteo e dire la nostra sugli avvenimenti, appunto, del 14 aprile, e poi per un aggiornamento e per rilanciare le mobilitazioni proprio sugli argomenti di cui parlavamo, per fermare il progetto di inceneritore nel nostro territorio, e quindi rilanciare le mobilitazioni delle prossime settimane. E a proposito sempre di vecchie e nuove resistenze, vi segnaliamo anche l'appuntamento di domani sera alla Facoltà di Fisica della Sapienza. Ci sarà alle 18 la presentazione del libro Paolo e Daddo con uno degli autori, il fotografo Tano D'Amico, e con Sergio Bianchi, e ci saranno, e la festa sarà caratterizzata in particolare da tutte le forme di nuova resistenza, quindi banchetti del coordinamento contro gli inceneritori di Albano e interventi del coordinamento, banchetti informativi sul NOTAV. E quindi a seguire poi e festa. Anche uno spazio dedicato invece alla questione palestinese, quindi ci sarà anche lì materiale informativo a riguardo. Sì, e anche un live painting alle 8 con un po' di writer, un live painting antifa. E allora, ricordando il 25 aprile, vi lasciamo con questa canzone. Un saluto dalla redazione di Impatto, a risentirci alla prossima settimana. Ciao.